Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, facciamo ancora in tempo a dirci buon Natale. Comunque la baraonda è passata, magari cominciate anche voi a godervi qualche ora o qualche giorno di vera tranquillità e di autentica vacanza. Finito il carosello dei regali e finalmente siamo fuori da quella che è l'ultima vera fatica dell'anno, e soprattutto è fuori da questa fatica un personaggio che non tradisce e che non mostra la fatica nonostante l'età piuttosto avanzata, e cioè Babbo Natale, e che proprio in questi giorni comincia a godersi il meritato riposo in una località segreta. Ma noi l'abbiamo rintracciato e gli abbiamo chiesto un regalo, quello di rivolgergli alcune domande. Babbo Natale ha accettato, prestandosi a questa intervista impossibile nella quale gli dà voce Alfio Maggiolini, che è uno psicoterapeuta, docente all'Università di Milano e Bicocca, e che ha scritto con Michele Maggiolini il libro La vera storia di Babbo Natale, perché non diciamo la verità ai bambini. Buonasera Babbo Natale. Buonasera. Babbo Natale, nel libro che ho citato poco fa di Alfio e Michele Maggiolini si dice che lei è nato nel 1822, anzi ci sono sue tracce addirittura già nel 1435. Ecco, in tutti questi anni il mondo è cambiato, però lei no, lei è rimasto sempre lo stesso e soprattutto pare che siano rimasti, almeno nei suoi confronti, sempre gli stessi bambini. Come mai? Ma è vero, eh? È vero che sono, non sono certo invecchiato, sono sempre in buona salute, però non è vero che non sono cambiato. In realtà in passato, quando ero, come dire, vivevo un po' più nei boschi, ero un po' più in contatto con la natura. Oggi invece mi trovo spesso a produrre, quindi non continuo a produrre giochi, a distribuirli, e quindi un po' mi sono anch'io adattato al mondo in realtà. Eppure i bambini, come dicevamo, credono ancora con la stessa fiducia dei bambini di un tempo. I nativi digitali non sembrano cambiati loro. No, anzi di più. Mi sembra di essere sempre più aspettato, sempre più riconosciuto. Lei sa, avevo un sacco di concorrenti che distribuivano doni in passato, e ormai mi sembra che sia rimasto solo io. Non c'è più Gesù Bambino, Santa Lucia. Non c'è più, naturalmente, sì, forse la Befana, ma è proprio rimasta una comparsa, e quindi tutto il lavoro è mio. Quindi devo dire che in qualche modo la televisione, i mezzi di comunicazione, internet, invece di annullarmi, mi hanno amplificato, ma succedeva già un bel po' d'anni fa con il cinema, sono stato protagonista di tanti film molto importanti, e quindi credo che i mezzi di comunicazione in realtà, e poi anche devo dire la cultura americana, ha sicuramente diffuso la mia immagine in modo sempre più ampio. La fiducia che i bambini hanno nei suoi confronti, ci si è posti questo problema: che significato assume la credenza infantile? Cito da quel libro che le ho citato. Sì. Prepara il terreno al radicamento delle credenze adulte o, come pensava un certo famoso filosofo, agisce come un vaccino contro di esse? I bambini, la fiducia che hanno nei suoi confronti, che impatto possono avere da questa fiducia? Ma ci sono diverse componenti. Da una parte sicuramente per loro è anche un modo di fantasticare, quindi un po' mi assimilo anche a un personaggio fantastico come tanti altri che conoscono. Però è vero che, soprattutto però devo dire per merito dei genitori, i genitori trasmettono loro l'idea che la mia esistenza sia un'esistenza che ha un valore diverso rispetto all'esistenza dei personaggi immaginari. È come se io avessi davvero un valore simbolico più ampio, quindi secondo me è un modo attraverso cui i genitori fanno capire che esiste un livello di realtà simbolica complessa che anche fa parte del mondo degli adulti alla fine, perché sono gli adulti che mi raccontano ai bambini, ed è quindi come un modo per far percepire questa dimensione ai bambini. E a proposito di Babbo Natale, è stato scritto: dono, famiglia, nascita, dissipazione, solidarietà, ecco le componenti del Natale contemporaneo di cui Babbo Natale è il re. Lei si riconosce in questo ritratto? Beh, sicuramente. Devo dire che la dimensione del dono, forse anche perché è più in sintonia con la società consumistica, è diventata predominante. Sembra che io sia diventato un donatore, e questo ha contribuito a fare del Natale un momento in cui il tema del dono è centrale, mentre forse altri elementi, quindi l'idea della famiglia, l'idea della Messia, l'idea soprattutto del cambio delle stagioni, dell'importanza della fine dell'anno vecchio e dell'inizio dell'anno nuovo, queste dimensioni che hanno fatto sempre parte delle dimensioni appunto di significato del Natale sono un po' più sullo sfondo in questo momento. Certo, c'è questa dimensione consumistica, però mi pare di ricordare che di lei si è detto anche che è il simbolo dello sforzo che si fa per cercare di mantenere, di salvare lo spirito familiare del Natale. Che cosa si può fare per salvaguardare questo spirito? Che cosa fa lei? Beh, sicuramente il mio contributo è quello di mettere i bambini al centro, per un giorno almeno, di considerare che sono preziosi e di ricreare quindi la famiglia attorno all'idea del bambino, l'idea della nascita. Quindi certo un po' un contributo lo do in questa direzione. Un nome famoso della neuropsichiatria infantile, sì, Giovanni Bollea, ha scritto: Babbo Natale occupa un posto privilegiato nel mondo incantato dell'infanzia che non va tolto ai nostri bambini, è una guida verso la realtà adulta. È contento di avere dei sostenitori così autorevoli? Sono molto contento, perché veramente ho pedagogisti, grandi psicoanalisti, tutti che sostengono l'importanza della mia figura proprio nello strutturare la crescita dei bambini. Purtroppo ad altri miei colleghi non è andata così, per esempio per la Befana non c'è qualcuno che sostenga l'importanza della sua esistenza e del fatto che la sua presenza nella vita dei bambini possa svolgere una funzione psicologica, e così per molti altri, mentre per fortuna io credo di avere ancora, diciamo, una certa influenza nell'ambito della psicologia, della psicoanalisi, della pedagogia. Però ha avuto anche tanti avversari, per esempio la Chiesa Cattolica, non soltanto. Lei ricorderà, sono stato anche impiccato a Digione negli anni 50, e Lévi-Strauss lo ricorda, che veramente l'ho vista brutta in quel momento, no? Pensavano che io portassi lo scompiglio nella cultura cattolica, in una certa idea del Natale, e pensavano, impiccandomi e bruciandomi sulla piazza, di annullare la mia influenza sul Natale e sui bambini. E invece lei sa come è andata a finire, no? Anche se si è scritto di lei, Babbo Natale ci appare come un perfetto rappresentante immaginario di una fede, seppure per bambini, che non ha bisogno di religione. Forse era questo che preoccupava la Chiesa. Certo, perché io non... ho una mia esistenza, è un'esistenza mitica, però non sono legato a nessuna religione e quindi posso anche sconfinare e quindi superare i confini delle religioni, perché davvero non sono legato a un Dio, svolgo la mia funzione, ma non devo per forza essere assimilato ha una visione religiosa della vita. Perché si è detto di lei che Babbo Natale è un segno della fiducia dei bambini negli adulti? È perché i bambini ci credono, perché gli adulti vogliono che ci credano e quindi si fidano, i bambini si fidano di quello che dicono gli adulti, almeno fino intorno ai 7 anni, 8 anni, dopo cominciano a dubitare, ma fino a quell'età, quando i genitori dicono guarda, Babbo Natale esiste, Babbo Natale verrà, i bambini non mettono in dubbio questa esistenza, la mia esistenza, a partire proprio dal fatto che gli adulti li convincono della mia esistenza. Appunto, poi c'è questa soglia fatale dei 7 anni, diciamo all'età della scuola elementare i bambini perdono la fede in Babbo Natale. Che cosa scatta nei bambini? Purtroppo crescono e a me un po' dispiace, devo dire, però di solito lascio un buon ricordo e questo non mi dispiace. Scatta il fatto che non è tanto, devo dire, che ragionano sulla mia possibilità di essere nello stesso tempo in tanti luoghi diversi, o ragionano sulla differenza fra personaggi fantastici o reali, perché queste convinzioni, a questi modi di ragionare arrivano già anche prima, ma è come se capissero di più il senso del racconto che gli adulti fanno loro, cioè entrano, sanno più capire cos'è una storia, cos'è un mito, è come se entrassero di più in una capacità del far finta più sofisticata, e quindi riescono a decodificare quello che gli adulti, questo racconto che gli adulti fanno loro. Gli adulti oggi trattano i bambini da adulti molto spesso, addirittura per esempio ho letto in un libro che i genitori danno impartiscono un'istruzione sessuale fin dai primissimi anni ai bambini, però appunto insegnano loro che i bambini non nascono sotto i cavoli, però perpetuano il mito di Babbo Natale. Non c'è una contraddizione in questo? C'è una grande contraddizione perché queste bugie che gli adulti hanno sempre raccontato ai bambini, che delle bugie che servivano, come dire, a coprire qualche dimensione un po' sacra o segreta della vita, come quella della sessualità, i pedagogisti, gli psicologi, gli psicanalisti di cui parlavamo prima hanno progressivamente detto che non era così giusto raccontarle ai bambini e che bisognava dire la verità, per esempio sulla sessualità, ai bambini fin da piccoli, sulle loro origini, eccetera. Eppure, tra tutte queste bugie della tradizione, la mia riferimento a me invece è rimasto intatto, anzi ancora più rinforzato. È come se man mano che scomparivano, diciamo, queste altre aree di racconti un po' misteriosi, la mia esistenza andava a occupare un posto sempre più ampio in qualche modo. Lei è stato un abilissimo manipolatore dei media, da quelli remoti a quelli più moderni. I politici dovrebbero imparare da lei. Ma devo dire che me la sono cavata effettivamente. Ho cominciato già quando ero ancora, diciamo, un po' appena nato, e quindi sono diventato subito, ho avuto degli ottimi disegnatori che mi hanno davvero dato un'immagine molto simpatica. Poi c'è stata la Coca-Cola che mi ha rivestito di colori più gradevoli di quelli che forse avevo prima, e progressivamente, partecipando a tanti film e così via, sicuramente sono riuscito a farmi un'immagine, credo a questo punto, invidiabile. E quest'anno qual è il regalo che le ha fatto più piacere consegnare? Scommetto un libro. Ci sono questo, un libro che hanno appena scritto due colleghi, che appunto hanno raccontato la mia vera storia, sicuramente è un libro che è molto interessante, che ho consegnato qua e là, non solo ai bambini ma ai genitori. Grazie a Babbo Natale, al quale ha prestato la sua voce Alfio Maggiolini. Buon Natale! Buon Natale a voi! Il libro di Alfio Michele Maggiolini, La vera storia di Babbo Natale, che ho citato poco fa, è pubblicato da Raffaello Cortina, 176 pagine, 14 euro. E in questo libro gli autori sottolineano l'importanza nella creazione del mito di Babbo Natale di un'opera celeberrima, Il canto di Natale di Charles Dickens, di cui vi segnalo le nuove edizioni del 2016. L'ha pubblicato Feltrinelli, 134 pagine, 7 euro, De Agostini, 156 pagine, 6,90 euro, Garzanti, 96 pagine, 4,90 euro, Rizzoli, 140 pagine, 16 euro, e poi c'è anche un'edizione per bambini pubblicata da White Star, 16 pagine, 14,90 euro. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Siamo in pieno periodo di stravizi alimentari, ma anche in un tempo che possiamo dedicare magari con più agio a qualche lettura. E allora vi segnalo due libri che sposano la narrativa con la cucina. Il primo è un libro di Carlo Martigli, che è un manager che si è convertito alla scrittura soprattutto di thriller storici, e che ha scritto La follia di Adolfo, è pubblicato da Mondadori, 224 pagine, 14,90 euro. Martigli torna nella sua Toscana descrivendo le avventure di Adolfo, che è un brillante cadetto di una famiglia nobile di cui seguiamo la storia dai primi del Novecento circa. La vita familiare ha un brusco cambiamento per la rovina economica provocata dalle prodezze appunto di Adolfo, tutto diverso dal capofamiglia, il fratello Pietro, che cerca di mantenere il decoro e l'unità della famiglia, al centro della quale, come punto di riferimento indiscusso, c'è la domestica Finimola, autrice di manicaretti irresistibili che scandiscono la storia, sui quali troviamo anche un'appendice con note curiose, ma anche ricette ricche di riferimenti letterari. Il secondo libro è di Carmine Abate, che è uno scrittore calabrese emigrato in Germania, adesso trapiantato in Trentino, che ci dà il profumo della sua terra e in particolare della comunità albanese nel libro Il banchetto di nozze e altri sapori, pubblicato da Mondadori, 168 pagine, 15 euro. Qui il protagonista rievoca le vicende della propria comunità anche attraverso l'identità culinaria fatta di profumi e aromi e tradizioni particolari, per esempio quella che a Natale vuole sulla tavola 13 piatti saporitosi, altrimenti, scrive l'autore, il bambinello non sarebbe stato contento e la sorte non ci avrebbe sorriso. Ma la vita di Abate si è spinta fuori dalla Calabria, allora per esempio troviamo anche i canederli, anch'essi frutto di una miscoglianza saporitosa, fino all'inizio inevitabile connubio della polenta con l'anduia, la cui autrice, fidanzata dello scrittore, ne conquisterà il padre che, assaggiato quella pietanza, osserverà e conforterà la scelta del figlio dicendo: questa è una donna con sale da maritare subito. Un'altra attività alla quale ci dedicheremo probabilmente in queste settimane, in questi giorni, sono i viaggi. Allora vi segnalo un libro di un prete milanese, Roberto Di Diodato, che si intitola Viaggi dell'anima, la scoperta della bellezza del mondo, è pubblicato da Alberto Peruzzo, 144 pagine, 14,90 euro. Questo è un viaggio verso tante mete caratterizzate dal misticismo che evocano, dall'Armenia fino al Monte Sinai, quest'ultimo definito il viaggio dei viaggi. Al termine del quale, scrive l'autore, Dio si sveglia e chiede di parlarti e tu rimani esterrefatto. Una meta molto amata dagli italiani naturalmente resta Parigi. A chi ci va in questo periodo segnalo un libro di Jacques Jonnet, che è uno scrittore francese che morì nel 1974, molto amico dei circoli surrealisti, e di un grandissimo fotografo, Robert Doisneau, le cui immagini accompagnano questo volume che si intitola Rue des Malefices, storia segreta di Parigi. È pubblicato da EDT, 330 pagine, 23 euro, tradotto da Guido Lagomarsino e curato da Sergio Bestente. Quando il libro uscì nel 1974, esso incontrò un grande successo che non scosse particolarmente l'autore. E questo libro di Parigi ci dà una descrizione veramente unica e preziosa, anche perché ci descrive luoghi che non ci sono più molto spesso. Geneva alla scoperta dell'anima, anzi, come scrive lui, del cuore di Parigi. E per far questo, scrive: per coglierne i segreti più intimi si deve agire con la massima tenerezza e armarsi di pazienza fino all'esasperazione. Bisogna sfiorarla senza malizia, accarezzarla senza secondi fini, insistere per secoli e secoli. Non è di Parigi, conclude, non conosce la città chi non ne ha mai incontrato i fantasmi. E questi fantasmi, appunto, l'autore ci descrive, dandoci anche una grande prova letteraria. Jonnet, scrive il curatore, infatti, vive e racconta la sua città come un grande palinsesto nel quale le diverse epoche sopravvivono e si sovrappongono a diversi livelli di profondità appena velate, attendendo solo lo sguardo del flâneur narratore per manifestarsi in tutta la loro forza leggendaria. Quindi questo è tutt'altro che una guida turistica, anche perché molta di quella Parigi è scomparsa, di una Parigi appena uscita dalla guerra. Ma sicuramente nel libro troviamo una traccia per ritrovare spunti di una metropoli segreta, magari scomparsa appunto, ma dalle tracce ancora evidenti. Un viaggio più lontano ci invita a fare Stefano Cammelli, che è esperto di Cina e in particolare di turismo culturale in Cina. Il suo libro si intitola Storie di uomini di fiumi lungo le rive del fiume azzurro cercando la Cina di ieri e di oggi, pubblicato dal Mulino, 366 pagine, 18 euro. Questo è un viaggio che è anche una cronaca dell'evoluzione della società e della politica cinesi, società che non è soltanto dominata dalla corsa all'arricchimento. Questa lettura della Cina ci consente di tornare ai fondamenti artistici e letterari di una cultura millenaria, qui descritta nelle tappe appunto di un viaggio lungo il fiume azzurro. L'autore scrive che riesce facile innamorarsi di questo paese, della sua letteraria eleganza che non si mostra se non la si cerca, che gioca con la nostra sensibilità come uno specchio che rende visibile solo quello che stiamo o vorremmo essere. Ma ripeto, qui non c'è solo la descrizione del passato, ma l'analisi anche del cambiamento sociale che alla Cina sta portando ricchezza, non senza dei travagli importanti. Se invece in questo periodo vi dedicate alla visita di qualche mostra, vi segnalo quella dedicata a Sant'Elia, ad Antonio di Sant'Elia, dalla Triennale di Milano. Antonio di Sant'Elia fu un geniale architetto morto giovanissimo durante la Prima Guerra Mondiale nel 1916, che viene ricordato appunto in questa mostra che sarà aperta fino all'8 gennaio ed è curata da Alessandra Coppa, Maria Mimmo e Valentina Minosi. In questa occasione, l'occasione del centenario della morte di Antonio Santelia, è uscito il libro di un noto scrittore milanese, Gianni Biondillo, che si intitola Come sugli alberi le foglie, pubblicato da Guanda, 350 pagine, 18,50 euro. E qua troviamo la vita romanzata, ma molto documentata, di Santelia, a partire dall'infanzia a Como, poi una serie di flashback molto dedicati alla guerra alla quale appunto Santelia prese parte, fino a cadere il 10 ottobre del 1916. In mezzo Milano e la vivacità culturale che caratterizza quella città, che sarebbe esplosa poi col futurismo. Nel libro, per esempio, troviamo il poeta Marinetti che acquista un'automobile e va a ritirarla nella sede della Isotta Fraschini, che è quella dalla quale adesso vi parla questa radio. Ma anche per gli architetti Milano era una meta importante, scrive infatti Biondillo. Milano era come un grande laboratorio di forme in continua evoluzione, tutto da scoprire. In questo ambiente così dinamico, così vivace, si inserisce il ragazzino Santelia, che ha a che fare con mostri sacri come Carrà o Boccioni, colpiti dai suoi progetti visionari. Ma Santelia non lascerà del tutto Como, dove anzi farà il consigliere comunale, dove lascerà alcuni lavori fedeli alla sua visione dell'architettura, come di una roba, scrive così, seria, solida, non è mica effimera come una scenografia. E sentiamo dal libro di Biondillo il suo approccio prudente alle prime commesse che riceve appunto nella sua città a Como. A Como sembrava che tutti lo corteggiassero con proposte di consulenze e di incarichi professionali, cose di varia natura. Spesso decorazioni di facciate, come alla scuola di via Brambilla, o proprio all'edificio dove suo padre, buonanima, teneva bottega in via Cantù. Quanto gli piaceva l'idea di metterci mano. Con graffiati moderati, ornamenti d'un gusto moderno ma condiviso, nulla di eclatante. Antonio sapeva che non era ancora il caso di esagerare dalle sue parti. Mica l'avrebbero capito. Como gli aveva dimostrato fiducia e lui non voleva tradirla. Come quando gli commissionarono il progetto per la nuova sede della Società dei Commessi di Como, una cosa importante, insomma. Antonio iniziò a progettare sapendo che doveva prendere le misure col committente. Un progetto di qualità, ma non troppo futurista. Non ancora. Quest'anno che sta per chiudersi cade un altro anniversario rotondo, l'80° della morte di Grazia Deledda, che fu il premio Nobel per la letteratura nel 1926, fu la seconda donna a ricevere questo premio. La scrittrice sarda merita di essere riletta e la troviamo nel libro di Rossana Dedola, Grazia Deledda, i luoghi, gli amori e le opere, pubblicato da Vagliano, 300 pagine, 22 euro. Il libro ricostruisce la vita e la carriera letteraria della grande scrittrice, offrendoci squarci inediti attraverso anche una corrispondenza recentemente rintracciata presso varie biblioteche europee. La Deledda ha percorso in lungo e largo la sua terra, la sua isola, poi si era trasferita a Roma, dove non fu fascista e dove appunto fu la seconda donna a vincere il premio Nobel, lei che non era andata a scuola oltre la quarta elementare. Anzi, ci dice il libro, su Grazia Deledda per parecchio tempo sembrò aleggiare l'idea che avesse scritto troppo e male anche a causa degli studi irregolari. Oggi possiamo finalmente rovesciare questo giudizio. Grazia Deledda ha letto regolarmente per tutta la sua vita e ne abbiamo appunto le testimonianze in queste lettere. La Deledda, scrive l'autrice, non si mise a inseguire i buoni sentimenti su cui si pensava andasse costruita la nuova Italia, né il sentimentalismo delle tante donne che scrivevano, rivolte tutte verso la propria anima. Non pensò, come Sibilla le Ramo, all'amore come al perno su cui far ruotare la propria identità. E sentite come la stessa scrittrice, come la stessa Grazia Deledda, si presenta in questa lettera. Sono piccina piccina, sa. Sono piccola anche in confronto delle donne sarde che sono piccolissime, ma sono ardita e coraggiosa come un gigante e non temo le battaglie intellettuali. Ora mi son messa in questa e spero di vincerla. In Sardegna sono molto conosciuta ed amata, specialmente dai giovani. Ora, io ho fatto l'appello ad essi e son sicura che tutti mi risponderanno, non tanto per amor di patria, quanto per amor mio. È troppo poca modestia dir queste cose, ma io non conosco la falsa modestia e in arte non ci deve essere modestia per chi vuol farsi avanti. Grazie Deledda è dedicato un volume dei tre che escono in una collana di Maria Pacini Fazzi Editore, intitolata e dedicata alle donne d'Italia. Il primo è di Nere Di Giovanni, dedicata appunto a Grazia Deledda, 90 pagine. Il secondo di Nadia Verdile, dedicata a Cristina Trivulzi, 86 pagine. Il terzo di Luisa Cavaliere su Nil De Jotti, 94 pagine, ognuno costa 6 euro. E chi voglia rileggere la Deledda potrà comprare Canne al Vento, uno dei suoi grandi classici, è pubblicato da Dalai, 240 pagine, 7,90 euro. C'è anche l'edizione Garzanti, 216 pagine, 9 euro. La Madre, edizioni clandestine, 118 pagine, 7,50 euro. La Via del Male, pubblicato da Ilisso, 252 pagine, 11 euro. E poi un libro dedicato a questo periodo, I Racconti di Natale, pubblicato da Ecra, 120 pagine, 9 euro. E un libro per i ragazzi, pubblicato da Lindau, Il Dono di Natale, 32 pagine, 13 euro. E a questo punto... Il confettino. I libri di Deledda sul Natale ci portano ad altri due grandi classici che abbiamo ricordato nel 2016. Il primo è Shakespeare. Per i più grandicelli segnalo I Racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb, illustrato da Joël Jolivet, pubblicato da Rizzoli, 184 pagine, 22 euro, tradotto da Elisa Puricelli Guerra. Poi troviamo una bellissima edizione della Tempesta, sempre con il testo di Mary Lamb, illustrato da Fabian Negrin, per Orecchio Cervo, 19,50 euro. L'altro autore è Jack London, che abbiamo ricordato quest'anno. Il suo grande classico, molto amato dai ragazzi, Il richiamo della foresta, è proposto da Maurizio Quarello, tradotto da Davide Sapienza, 94 pagine, 19,50 euro. E poi abbiamo L'ombra e il bagliore, illustrato da Fabian Negrin e tradotto da Giorgio Grilli, 29,50 euro. Quest'ultimo un libro particolarmente originale e suggestivo per la cura e gli accorgimenti grafici. Entrambi sono pubblicati da Orecchio Cervo. E prima di salutarci ricordo un altro anniversario importante che è caduto nel 2016, ossia il 500° anniversario della pubblicazione di uno dei libri capitali della civiltà occidentale, cioè Utopia, il libro scritto in latino da Tommaso Moro. L'utopia è rimasto uno dei filoni più importanti del pensiero politico fino ai nostri giorni e se n'era occupato di recente uno studioso scomparso proprio poco più di una settimana fa, Paolo Prodi, uno storico tra i più importanti della sua generazione, che con un filosofo, Massimo Cacciari, aveva pubblicato col Mulino pochi mesi fa Occidente senza utopie, 142 pagine, 14 euro. Nel libro i due autori cominciano sottolineando appunto l'importanza del libro di Tommaso Moro, considerato come un autentico spartiacque. Scrivono i due, l'utopia si configura qui come progetto politico e di questo appunto parla anche Paolo Prodi nel suo saggio, per dimostrare la carica innovatrice, quando non rivoluzionaria, del pensiero utopico e della profezia, termine quest'ultimo che diventa sinonimo di riforma. Tra l'altro nell'anno che si sta per aprire, nel 2017, parleremo molto di riforma con la R maiuscola, della riforma religiosa, perché l'anno prossimo cadrà il 500° anniversario dell'avvio della riforma protestante. E mentre Cacciari invece nelle sue pagine sottolinea la differenza tra utopia e ideologia. L'ideologia, scrive, pretende di presentarsi come obiettiva, l'utopia gioca invece sul paradosso e spesso sull'ironia, proprio i tratti che troviamo nell'opera di Tommaso Moro. Chi voglia leggere l'originale di Tommaso Moro, ricordo le edizioni più recenti, quella di Giunti, 160 pagine, 4,50 euro, e quella di La Terza, 134 pagine, 6,90 euro, naturalmente tradotte in italiano. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Valeria Bernardi in regia, vi auguro ancora buon Natale, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.